Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. No, ma chi è bravo? Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Ilenia, ascoltami. Tu lo sai che ci sono uomini che per troppo amore e troppa gelosia fanno delle cose che non vorrebbero fare. Il troppo amore non si può sentire, vogliamo dire così? Diciamo che è una bestemmia. Avvicinare la violenza all'amore è una bestemmia assoluta, è una cosa che non si può pronunciare. Dovrebbe essere una regola, ci vorrebbe un codice. La televisione generalista negli orari di pomeriggio, di mattina, non a orari di cena, non solo i telegiornali devono dare la notizia e del caso se ne deve occupare solo chi deve farlo. Allora, siccome vedono che gli ascolti funzionano, allora gli stanno dando dentro. Capito, anche Fiorello ha capito come funziona. Anche Fiorello ha capito come funziona. Gli ascolti vanno e allora mettili quella forse bruciata dal fidanzato, sicuramente bruciata forse dal fidanzato, e di queste belle frasi. Adesso se ne sono accorti tutti noi, è da ieri qua che tuoniamo ieri mattina a dire: ma com'è possibile, Barbara D'Urso? Ma perché? Ma perché? Basta, basta. Ma basta. Ah, ragazzi. 6 e 32 minuti. Pure Fiorello a dire ci vorrebbe un codice. Ma a me quando ci sono i codici, questa cosa dei codici, questa idea di imbrigliare, io che odio. Io sono per la massima libertà, per la massima libertà. Poi quando succedono però queste cose, cos'è che gli ha detto? Per troppo amore gli uomini fanno questo. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, dai, il brutto della diretta, come dire. Ah. Allora, signori, avete preso i biglietti per venire a vederci domenica al Teatro Manzoni alle 20.45? Leonardo Manera, ci sono io, c'è Mario Giordano, opinionista d'eccezione. Che ci spettacolo, sono... che spettacolo. Sì, caro Presidente De Luca, in questo caso sì, ci sono tanti comici, c'è Vera Sant'Agata che balla. Siamo in tanti, ci si diverte dalle 19.45, si aperitiva. 1 Torino, e allora... inserimento perfetto, e da manuale l'impatto sulla palla di Bonaventura. E andiamo. E andiamo contro la Juve, tanto contro la Juve si vince sempre. Che spaccone, mamma, che spaccone. 6 e 33 minuti. Come? Improbabile. Lo credo anch'io. Siamo qui, c'è Silvietta Brasca che voglio salutare subito. Cara Silvia, buongiorno. Ciao. Tu che nei TG hai buongiorno. Codici, tu hai i codici da rispettare? Tu potresti dire in una bella frase, sai, perché in un tuo bel servizio gli uomini amano troppo le donne e quando le amano troppo, per troppa gelosia le bruciano? Ma Mentana mi farebbe volare. E quindi cioè, ci sono dei codici non scritti, altro che se ci sono. Ci sono, altro che. È proprio la morbosità è uscita. Ma io prima voglio dire una cosa: sì. Ma come fanno le telecamere a entrare in quell'ospedale? Esatto, bellissima anche questa cosa. Telecamere nell'ospedale di Messina. Ci spiegherà tutto, secondo me. Ci spiega tutto, cose che succedono a Messina. Lui le guarda con un certo distacco dalla sua mondello. È il nostro Vincino. Caro Buongiorno. Vincenzo, buon anno intanto a tutti. Buon anno. Ovviamente. Caro buon Vincenzo, anno come avranno fatto delle telecamere a entrare nell'ospedale di Messina? Attenzione, Messina. Non lo so. Messina è un ospedale impenetrabile praticamente, no? Totale, cioè non sarebbe come, cioè, ognuno di noi ha una macchina fotografica, una telecamera ormai quasi incorporata. Ma per le cui, telecamere lì piazzate, ho capito, con un po' le più luci, piccolo, un po' più grande, e là luci. Non ci vuole niente, ma assolutamente. No, ma era tutto organizzato, autorizzato, a Messina, la città che più ami al mondo, dopo Palermo. Più o meno, va bene, possiamo dire così, dai, non è che ho degli amici messinesi per cui sicuramente saranno tutti in ascolto, per cui non mi contengo, diciamo. Ti contengo. Cara Silvia, devi capire che lui direbbe le peggio cose su Messina e su anche questo ospedale, immagino, però... E poi sui codici, io amo i codici, guarda, la mia vita proprio è tutta una ricerca del codice, l'anarchico codice perfetto, certo, assolutamente. Allora dai, no, non lo so Silvia come hanno fatto a entrare in ospedale, sicuramente c'è stata un'autorizzazione. Sì, evidentemente qua a Milano nel 99% degli ospedali non si entra, ma non si entra neanche dentro il recinto, stai fuori sulla strada. Lì c'erano le dirette dall'ospedale, dall'ospedale vuol dire c'è uno zainetto, dei cavi che vengono certo, tirati, luci posizionate, infermiera si sposti che ci sta impallando la luce, vada a lavorare da un'altra parte qui, che adesso dottore metta giù quella siringa che adesso ci disturba. Oh. Potrei tirare un'ipotesi. Dai, no, tira un'ipotesi. Con il meccanismo degli 80 euro. 80 euro in portineria, 80 euro al piano, 80 euro all'infermiere, 80 euro al coso, 80 euro al primario pure. Là sono tutti felici, guarda. Noi, questa Italia degli 80 euro... Vabbè. So già cosa vuoi dire. No, fermati. No, non sarà successo così. È un'ipotesi di quelle che uno che fa satira butta lì, ma insomma, non succederà. Da Palermo a Messina, a Palermo funziona così. Allora, alle 6:37 minuti, apriamo il Parlamento. Non lo so. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente! Non lo so di cosa volete parlare. Caro Vincino, se vuoi sfogarti subito, visto che sono successe delle cose queste vacanze, soprattutto di recente contro il Movimento 5 Stelle, dire la tua sull'Europa, sul Casaleggio, su Grillo, così la apriamo, la chiudiamo e andiamo avanti. Non lo so, vedi tu. Mi trovi spiazzato, è un argomento proprio lontano in questo secondo. Cioè, quello... non è che... Le hanno fatte di ogni genere in questa cosa. Ma un po' tu godi per queste loro intemerate avventure finite. No, ma io guardo da analista politico praticamente, non è che io non godo, non partecipo a questa a questi piccoli piaceri e cose, no, certo, è divertentissimo, insomma, è stato un meccanismo stupendo, ha dato il meglio di sé, ha dato il meglio di sé. Cioè in che cosa? Nel tentativo di apparire liberale e poi nell'essere... Si sveglia di notte, gli viene un'idea, la passa subito online in re, lui è proprio, io me lo do anche disegna, è la più grande piattaforma di gioco online che c'è per ora in Europa, la sua. Assolutamente, lui fa il croupier e là si punta, si gioca poche, vai, si vince, si perde, però in politica la velocità è tutto. Giulio Cesare faceva avanzare le sue legioni velocissime su quelle, per questo vinceva. E quindi è veloce, va bene. Assolutamente. E poi è occupare il piano, occupare la comunicazione. Sì. La sta occupando totalmente. Quindi è una strategia vincente, mi stai dicendo? Assolutamente sì. Hai capito, Silvia? La strategia vincente del Movimento 5 Stelle. Ecco, sul fatto che occupare la comunicazione sia vincente, forse abbiamo un esempio recente in cui forse non è andata proprio così. perché anche Renzi aveva occupato la comunicazione, però è incredibile vedere come lui riesca nel giro di 36 ore a fare tutto il contrario di tutto, seguito, adesso sì, c'è qualcuno, il senatore, l'eurodeputato, le proteste, insomma, degli attivisti più esposti, ma c'è una base che lo segue comunque e vedo i sondaggi appunto una base anche abbastanza ampia. Ma leggo l'altra notizia con cui apro i giornali, leggiamo la vignetta di Vincino, eccola qua: multa di 4 miliardi su Marchionne e lui offre il maglioncino puro cashmere. Questo lo offre a Trump, tra l'altro. Ma sai che qui, caro Vincino, non è stato più Trump, ma dicono la vendetta finale di Obama, cioè della authority che Obama ha voluto, proprio quell'Obama a cui Marchionne ha portato la Fiat lì in America. Marchionne è un animo semplice. Ma che riconoscenza, mamma mia. Questi giochi, lui è lontano dalla politica, da queste cose qua, no? Per lui è normale, se ne va Obama, il nuovo presidente è Trump, e lui va con Trump e Trump vuole le fabbriche in America, e lui mette le fabbriche in America, non è che è buono lui di cuore. È buono, ha offerto anche un cashmere, tu lo metti così nella vignetta. Comunque bisognerà vedere. Battuta di Marchionne, ha detto, oggi l'ho letta su Repubblica: chi ci accusa di essere come la Volkswagen ha fumato qualcosa di illegale. Questo sì, lui ha detto ha fumato qualcosa, meno male, l'utilizzo, il fumo, visto che sono contestato. Fumo, cashmere, tutto, stupendo. Ha fumato qualcosa di illegale, Marchionne, furibondo Marchionne, furibondo. 4 miliardi sono... Insomma, il titolo è crollato in borsa. E poi quelle due sono i due modelli, quelli proprio i più usati, sono quei picapponi da stati, da corn states, quelli più usati dall'elettorato di Trump, sono appunto due modelli usati solo negli Stati Uniti, quei dieseloni che vanno ovunque. Sì. A proposito di Trump, l'avete citato, vi devo far sentire un Livio Fanzaga veramente spettacolo. Lo conosci, Vincino, Fanzaga ormai? Sai chi è? Livio Fanzaga, Vincino. Livio Fanzaga, lo conosci? Il direttore di Radio Maria, dai. Ah, vabbè. Don Livio, ma dai, è un mito, ma come no, fai? No, a non... no, ma sai, io... Vabbè, tu sei un mangiapreti, non so, questo ci vuoi dire. No, non c'è, cioè, ogni tanto capito, ma scappo subito. Però basta cogliere le cose più belle, le cose più... Ecco, Don Livio Fanzaga su Trump. Non è detto che Trump governi bene, staremo a vedere, insomma. Sa, si dice sempre, scopa nuova, scopa bene. Bisognerà mettere alla prova. Scopa nuova, scopa bene. Dopo comincia a scopar male. Che voleva dire Don Livio Fanzaga? Perché questo proverbio appioppato a Trump potrebbe avere quei 45 doppi sensi. Io non lo so adesso. Sì, è vero, scopa nuova, scopa bene. Cara Silvia, qui da Radio Maria ci sono dei messaggi demoniaci, oserei dire. Se letti al contrario, secondo me, se ascoltati al contrario, potrebbero, non lo so, Vincino. Devo seguirla di più, hai ragione, assolutamente. Secondo me, guarda che così a spizzichi e bocconi può regalare meglio, anche... Ma come l'avete trovato? C'è il nostro Lorenzo Nespoli, è lì, è geniale. Scopa nuova, scopa bene. Ma tu, Vincino, da uomo che fai satira, eccetera, da vignettista, ma non godi per Trump? Cioè, ti regalerà 4 anni stupendi. Questa qua, infatti, quella scopa nuova, scopa bene, l'ho fatta ieri, no? C'era lui e Berlusconi diceva 4 ragazze insieme, 4! E rimaneva così, come dire... È un record anche per assolutamente me. Poi quei figli, i cognati, un impiccio pazzesco, non so quanti mesi durerà. Melania, ma sai quanto ti regalerà? C'è cose veramente inenarrabili. In tutto questo Però Obama fino all'ultimo secondo, oggi continua a fare decreti, cose, non c'è, cioè, proprio E va bene, ragazzi, che deve fare? Cioè, fino all'ultimo è al potere. Silvia, tu adesso, Donald Trump, anche questa cosa, guardate quello che hanno messo in giro, l'ha messo in giro un sito assurdo, questa storia dei festini, ma vi giuro, un sito assurdo, è quello che si inventa delle bufale clamorose, eppure la notizia che ci sarebbero dei ricatti, video di festini di Donald Trump in mano ai russi. Cioè, per 4 anni dovremo avere a che fare con... il lettone di Putin, la maledizione di Putin. Del lettone di Putin. Però io su questo davvero mi ci sono spaccata la testa. E sì. Allora, se il contenuto, che mi sembra alcuni quotidiani italiani ovviamente hanno pubblicato di quel dossier che non verificato, non andava detto, però il fatto che ci fosse quel dossier, così come ha fatto CNN, secondo me era una notizia e se una notizia andava ma se ma ti sembra normale anche che ci sia un dossier della CIA che finisce ai giornali? Cioè, proprio è chiaro che adesso Trump al solito l'ha toccata piano, li ha definiti nazisti, quelli che della CIA che hanno fatto questo. Però, ma ti sembra normale che finisca? Non è ancora insediato ufficialmente e già partano i dossier? E lì facciano richieste interne su come arrivino, però il dossier esiste. Cioè, il problema è che quel dossier lì, falso, è arrivato alla CIA ed è arrivato, lì non è che si è fermato, cioè, è arrivato, i vertici lo sapevano, è arrivato alla Casa Bianca. A quel punto, secondo me, ha fatto bene CNN a dire che esisteva, perché secondo te non è importante sapere che un ex spia inglese abbia costruito su ordine di McCain e qualcosa, una serie di accuse false a Trump? Vogliamo non saperlo, ma non entrare nella cosa, nelle accuse, perché quello sì. Però quella è una notizia, assolutamente. Una notizia, dopo il traffico, però voglio parlare di questa Italia di spioni che Vincino conosce ormai da 30-40 anni, si sa, cioè, lui ha fatto parte di quelle repubbliche dove mannaggia, chissà cosa ce ne potrà raccontare. Poi mi raccomando, sempre palette pronte da 0 a 10, c'è Alfano e l'inglese, lesson number 2, tra poco. Alino, dai, fanno il balabio, manda il traffico. Ciao Alino, guarda che lo vogliamo anche noi lo spettacolo con Manera, lo vogliamo anche noi a Roma, ne abbiamo tutto il diritto. Scusi la domanda, Milan, ma Peter Nescafe vive lì? Alino, what the fuck are you dicendo? Respect the people who speak English with Italian accent. Non è detto che Trump governi bene, staremo a vedere, insomma. Sa, si dice sempre, scopa nuova, scopa bene. Bisognerà mettere alla prova. Scopa nuova, scopa bene. Dopo comincia a scopar male. È già uno degli audio cult, quindi l'abbiamo riproposto anche per Silvia Brasca, perché so che la mette di buon umore, quindi alle 6:47 del mattino. Allora, insieme a Silvia Brasca, il TG della 7, a Vincino, il nostro vignettista preferito. Allora, Vincino, questa Italia di spioni, quante volte l'abbiamo vista e sentita? Quante volte? Ogni 6 mesi, ogni 2 mesi, queste cose. No, ma i fratelli Occhi Neri è una cosa stupenda. Occhio Nero, Cicciona, con quell'occhio della massoneria, tutto con l'ombretto, che lei manco dice, io non sapevo manco usare il computer, dice la sorella, la mamma dice, gli pagavo la pizza. Sì, cioè, praticamente ormai... raccogliere notizie è un mestiere da viene pagato coi voucher. Così uno va alla 7 e dice, guardi, se tenga 3 voucher e mi passi 3 notizie su... ecco, potrebbe essere una soluzione, non diciamola a Cairo e a Mentana, non diciamolo a troppa alta voce, perché Silvia Brasca si ritrova coi voucher tra un po', mi sa, se potrebbe essere una soluzione. Effettivamente, ragazzi, sembra che le notizie vengano fatte per i vignettisti, perché i vignettisti possano godere, fare satira. Occhio Nero. Comunque, sui fratelli, oggi la notizia, secondo me, il racconto della vita carceraria nel VIP, dei VIP, si allunga di un capitolo. Cioè, la sorella, hanno rubato i vestiti tutti firmati, che aveva esatto. Lei che è vestita tutta firmata, sì, sì, sì, era arrivata in carcere con le borse, si è girata aperta, e qui, e qui spariti, Vincino sono spariti tutti i vestiti firmati, e qui che Vincino portato. Che di carcere ha una grandissima esperienza, essendoci stato due volte. Beh, ci può raccontare come era funziona. Un'altra epoca, però effettivamente la sorella è entrata, ha portato i vestiti firmati, si è girata, e poi c'è nota al giornalista, ha detto sì. Ovviamente quando sono spariti ha evitato di fare domande su chi le avesse, ha già capito che il clima deve essere quello, come dire, meglio sì. Che non chiedo chi mi ha rubato il dolce Gabbana. Vincino, però adesso... i calci femminili non li ho fatti, quelli ti mancano, ti spiace anche un po', diciamo la verità. Vabbè, comunque, come finirà? Perché ieri il generale Rapetto ci ha detto che è tutto un po' una burletta la Totò, di alcuni che sono finiti a strascico, forse a pescare per caso delle mail istituzionali che nessuno usa, di uomini potenti, quindi boh, vedremo. Ma come ti dico, quelle grandi inchieste che partivano da Barletta da Potenza, da cosa, cioè, tu con nomi inglesi in tutto il mondo, sì, cardinali, e poi... Giusto per dire di inchieste, oggi parla il Corriere della Sera, lo leggerò la segna stampa, Federica Guidi, ve la ricordate l'ex ministro? Archiviato, no? tutto niente, finito, non c'è nessun reato, non c'è niente, dimessa, sì. Dimessa, finì, carriera politica finita ovviamente. Una figuraccia, basta. Allora, sulla stessa pagina c'è anche il proscioglimento della Di Girolamo per quella vicenda per la quale si dimise. Ah, quella anche là, per par condicio, perché è proprio sulla stessa pagina e fa riflettere. Lo so. In tutto questo avete pronte le palette, caro Vincino? Tu che conosci l'inglese, sì, sì, alla perfezione. Conosco l'inglese, Alfano, tutto, guarda, tutto, soprattutto Alfano. No, cioè di lontano, no, di vicino. Sì, sì. Alfano, ministro degli esteri, io devo dire sempre due volte, ministro degli esteri, oggi tre volte. Alfano e l'inglese. Ladies and gentlemen, allow me to praise the Swedish presidency for organizing this debate. My gratitude also goes to the Secretary General for his ambitious program of action. Vabbè, ma dai! Cioè, vabbè, un po' favarese come pronuncia, ma cioè come accento, ma vabbè, però io mi taccio. Una figuraccia terribile. Ma dai, ma prova a ridirla tu. Ringrazia la presidenza svedese. Ma io forza. Non faccio il ministro degli esteri. Forza, ringrazia la presidenza svedese, se sei capace. Dai. Non mi astengo, guarda, assolutamente. Mi astengo a quest'ora del mattino, guarda. Non... Vabbè, quindi quanto dai da 0 a 10? Uno e un quarto. Silvia, tu che sei più generosa, si sa. Sì, gli do 6 perché ha aspirato. Si ribella. Si dimentica, dai. Ma diamogli 6. Comunque io ho incontrato Avramopoulos, se ha fatto il classico avrà parlato in greco. Sì, sì, sì. No, guarda che esatto, non è vicino a un consiglio di classe in cui puoi lamentarti con la professoressa Brasca. No, ho capito, ma là il 6 perché ha paura che poi non venga più alle interviste, che ne so, faccia rompa i rapporti con la 7 se gli dai tu come merita. Sì. Alfano spacca il video. Esatto, gli ha chiesto un'intervista oggi e sono lì a trattare, quindi è meglio dargli un 6 perché non si sa mai. Allora, però no, questa storia, Vincino, dimmi la notizia, sì, che ti ha colpito di più. Allora, Renzi è un po' sparito, ma trama nell'ombra, nel senso che vuol tornare. La CGIL totalmente, e i voucher, si sa. Tu andrai a votare, per esempio, il referendum sui voucher? Assolutamente, sì. L'hai capito? Sì, no, io sono contro i voucher, guarda, non... E perché? Totale, no, perché imbrogliano, dai, perché potrebbero, insomma... Perché da 10 anni hanno fatto tutti questi trucchetti, non è vero? Potrebbero fare i contratti normali, giusti, tranquilli, regionali, stagionali, settimanali, come dire, non un po' come i giornalisti hanno l'articolo 2, no? Sì. Che è un contratto che non è un che non è perfetto, però, però ti garantisce intanto. I giornalisti poi si sono fatti per sé le leggi buone, no? Sì. E per il resto no. Beh, sì, sappiamo, una casta insopportabile. Silvia Brascane fa parte, come me, come un po' tutti, no? Ma io mi sento, cioè non mi sembra giusto questo qua. Vabbè, vuoi abolire i voucher? Ok. Invece vuoi abolire tutti questi subcontratti? Sarebbero, se non usate l'italiano, sarebbero uno strumento meraviglioso per pagare davvero prestazioni temporanee che adesso vanno tutte in nero, da lezione privata, appunto proprio quelle prestazioni temporanee di un mese, sì, due mesi, quelle cose che ora creano un sommerso, sì, lavori, piccoli lavori e cose che poi vengono usate all'italiana. Come sempre. Sulla come carta sempre. L'intenzione era ottima e anzi e qualcuno l'ha anche usata bene. Io come li sempre. Li ho usati bene. Che cioè, senso non li avevo usati? Alternative. Cioè, non avevo alternative. Cioè li hai usati in che senso? Li prendi proprio alla 7 allora è vero? No. Non li ho usati. Il ticket resta. No. Tra un po' pagheranno via i voucher, pagheranno solo con i ticket, esatto, resta. Però per concludere, voglio riaprire il 2017 con il premio che avevamo istituito grazie a uno dei migliori amici di Vincino, e cioè Giachetti, vale a dire colui che secondo lui è il più onesto all'interno del raccordo anulare di Roma. Non ti ho chiesto niente della Raggi, tra l'altro, ma il premio ritorna, vediamo un po'. Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Allora, caro Vincino, cara Silvia Brasca, sì, avete il diritto di poter aggiudicare questo premio oggi o in questo momento per la persona che più, secondo voi, si addice a questa dicitura di Giachetti. Ecco, mettiamola così. Caro Vincino, che dici? Che il grillo, non è che senza alcun dubbio, non è che qua, assolutamente, anche, ma anche se te lo chiedo al 100%, sì, non è che, ma anche se te lo chiedo tra 10 giorni, sembra il grillo. Tra 10 giorni potrà esserci qualche altro, non tipo lo so. Di Maio, Di Battista, potrebbero essere Casaleggio, che Casaleggio, ne so, che so. Il ragazzino, non è che uno così, chi è il ragazzino? Casaleggio Junior, Casaleggio Junior. E invece la Raggi, tutto a posto? La Raggi ti piace? Ti sta... A me lo stai chiedendo, no, a Silvia? No, chiedevo a te, stai a Roma ogni tanto. No, niente. A me, io dico una cosa, però aspetta, io invece, perché Marra è ancora in galera? Cioè, secondo me i motivi sono finiti. Cioè, proprio uno deve essere garantista con i nemici, con quelli insopportabili. No? E tu con Marra, Marra. Secondo me Marra, cioè, lui non può più rovinare, influenzare, non può fare più niente. Vabbè. No. Allora, però, nel salutarvi, Silvia, anche tu, il tuo premio Giachetti. Anch'io andavo dritta lì, quella andavi settimana non ce n'è. Andavi dritta grillo, va bene. Dai, allora vi saluto, vi mando un abbraccio, ci troviamo alla prossima. Non è detto che Trump governi bene, staremo a vedere, insomma. Se si dice sempre scopa nuova, scopa bene. Bisognerà metterla alla prova. Scopa nuova, scopa bene, dopo comincia a scopar male. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. È arrivato Milanalino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Eccoci, cari signori, alle 7:19, siamo qui e vi ricordo che è venerdì, non l'ho ancora detto, è venerdì, signori. E tra l'altro è il giorno in cui si chiude la 193esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Allora, ieri abbiamo assegnato con nostro insindacabile giudizio gli ultimi 2 biglietti che abbiamo regalato per Platone, la caverna dell'informazione, domenica 20:45 al Teatro Manzoni. Ha vinto i 2 biglietti Mauro da Pavia. Si parlava della legge per i cacciatori. Com'è? Per Diana che multa. Questo Diana, sapete, dea della caccia, Molti hanno giocato sull'utilizzo di Diana. E allora, gli ultimi 2 biglietti ne abbiamo regalati 10. 10 persone fortunate che saranno con noi al Manzoni, tutti gli altri andate su teatromanzoni.it e compratevi il biglietto. Che dobbiamo fare? Questo è il dato di fatto. Dai, andiamo a leggere i giornali nella rassegna stampa di 24 mattino. È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Ed è venerdì 3... Venerdì 13. Urca! Brr, brivido di neve che si staglia sul volto di Peter Bescapè in regia. Venerdì... Peter, superiori a queste cose. Venerdì 13 gennaio, diciamolo forte. Le aperture. Il titolo principale è su Fiat Chrysler Automotive. Accuse di Dieselgate negli Stati Uniti. Il titolo crolla a Milano, meno 16% l'apertura del Sole 24 Ore, ma anche il Corriere della Sera. Diesel, accuse a Fiat Chrysler dagli Stati Uniti. Repubblica, Dieselgate, gli Stati Uniti contro Fiat Chrysler, fuori legge più di 100.000 auto. Il Messaggero, caso Diesel, gli USA contro Fiat Chrysler. Il Manifesto, tutto fumo. E c'è la foto di Marchionne, Avvenire, Fiat Chrysler, fumi sospetti. Vabbè, le altre aperture, la stampa sceglie la situazione in Libia, rivolta a Tripoli, i clan assediano il premier Sarraj. Per La Verità, più lavoro agli immigrati che agli italiani, discriminati a casa nostra, questo è l'unico paese europeo dove gli stranieri hanno una percentuale di occupazione superiore ai residenti. Libero invece, voi dare nomi, noi dare soldi, lo scambio su Montepaschi è l'ultimatum di Forza Italia al governo. Vabbè, vedremo altre aperture, ma voglio proprio concentrarmi su questa vicenda americana, Fiat Chrysler, le accuse, leggete Andrea Malan a pagina 5 del Sole 24 Ore, le accuse degli Stati Uniti per le emissioni sulla Jeep e le Dodge. Tra l'altro, le accuse arrivano da chi? Dall'Agenzia Americana per la Protezione Ambientale, che accusa Fiat Chrysler di aver messo in vendita nel 2014 oltre 100.000 veicoli con motori diesel dotati di un dispositivo che permette emissioni inquinanti superiori alla norma. Questa è l'accusa. Fiat Chrysler, afferma questa authority, ha installato e non comunicato un software di gestione delle emissioni nei modelli degli anni 2014, 15, 16 di Jeep Grand Cherokee e Dodge Ram 1500 con motori 3 litri diesel venduti negli Stati Uniti. Il numero di veicoli coinvolti è 104.000. Il crollo in borsa. Per La Verità, sempre sulla stessa pagina del Sole, Mario Cianflone e Marco Valsania raccontano che l'accusa mossa dalle autorità americane contro Fiat Chrysler non è pesante come quella scatenata contro Volkswagen, ma già viene considerata una seria violazione e l'inchiesta sul nuovo Dieselgate è ancora in corso, mettendo in gioco multe fino a 4,63 miliardi di dollari potenziali, 4,63 miliardi di dollari. Beh, tutti raccontano il fulmine a ciel sereno, soprattutto dopo i complimenti del neopresidente eletto Trump, no? Perché Marchionne ha annunciato investimenti in Ohio e Michigan. E quindi, come viene vista questa? Viene vista un po' come una sorta invece di colpo di coda dell'agenzia che è stata nominata da Obama, e quindi come quasi un veleno nella coda della presidenza Obama, più che un burrascoso inizio di rapporto con Trump. Leggete Giuseppe Sarcina a pagina 3 del Corriere della Sera. L'accusa dell'agenzia spezza in modo traumatico il rapporto tra Fiat Chrysler e il governo guidato da Obama. Sergio Marchionne ci aveva lavorato per anni, era convinto di aver costruito una relazione solida, reciprocamente vantaggiosa, soprattutto al riparo da sgradevoli sorprese. Il gruppo, Fiat Chrysler, è il prodotto più evidente e forse il più riuscito del piano di salvataggio dell'auto americana voluta da Obama. E ancora, lo scorso anno, a Detroit, Marchionne non vedeva insidie all'orizzonte, dicendo: dovesse salire un repubblicano alla Casa Bianca, non penso che le cose nella sostanza muteranno. Dunque c'era l'incognita Donald Trump. Il vertice del gruppo italoamericano ha cominciato a studiarlo e quando il miliardario newyorkese ha vinto le elezioni non si è fatto cogliere impreparato. Marchionne ha parlato con Trump, il suo staff, lunedì scorso si è presentato a Detroit, ha annunciato investimenti per $1 miliardo nell'Ohio e nel Michigan, guarda caso due stati decisivi per la vittoria di Trump. Invece, a giudicare dalla furibonda reazione di ieri, Marchionne e i suoi avevano completamente perso di vista i movimenti dell'amministrazione uscente. Quindi sembra più una sorta di problemuccio con Obama. Marchionne incontra i giornalisti, pagina 2 di Repubblica, ci sono le frasi più dure. E beh, anche emblematico l'utilizzo di questa espressione da parte dell'amministratore delegato di Fiat Chrysler, e cioè ci accusano di fumi, come dire, taroccati. Chi ci paragona a Volkswagen ha fumato qualcosa di illegale. Così risponde Marchionne in qualche modo, ribaltando la questione del fumo, anche se di altro tipo, a coloro che accusano. Non sopporto, e questa è la cosa che mi fa incavolare di più, che mettano in dubbio la mia coerenza morale. Se mettono in dubbio la mia posso sopravvivere, ma non tollero che lo si faccia sulle spalle di decine di migliaia di persone che lavorano nella nostra azienda. E qui c'è infatti la domanda: prima gli elogi di Trump, ora l'attacco degli enti di Obama. Vi sentite nel tritacarne? Spero e voglio continuare a credere che non sia così, risponde Marchionne. Certo, la tempistica colpisce. Evidentemente qualcuno in questa agenzia doveva chiudere il dossier e far pulizia sulla scrivania prima della nuova amministrazione, ma voglio sperare che non sia una vicenda politica. A Obama Chrysler deve la rinascita, in ogni caso continuava a confrontarci con tutti, anche con Trump. Lo si poteva fare serenamente, come è accaduto in questi mesi, non c'era bisogno dei toni moralistici che sono stati usati. La questione però rischia di essere seriamente economica, eh? Vabbè, lasciamo Marchionne e le sue problematiche, veniamo all'Italia. Vi segnalo due articoli di due donne, due ex ministri, che sono finiti nel tritacarne e che ne sono uscite. Dal punto di vista giudiziario, linde. Però, quanto hanno pagato? Ricordate Federica Guidi, ex ministro dello sviluppo economico? Ora lei dice fatta a pezzi per un niente, tutto archiviato. Tutto archiviato. Con la politica ho chiuso. Pagina 9 del Corriere, intervistata da Monica Guerzoni. Le luci della ribalta prima l'hanno esaltata, poi l'inchiesta di archiviazione dell'inchiesta Tempa Rossa. Federica Guidi ora si tiene alla larga da registratore delle telecamere, dice solo che sono stata fatta a pezzi, costretta alle dimissioni. E per cosa? Non c'era nulla in quella intercettazione, non ero nemmeno indagata, infatti è finito tutto in una bolla di sapone. Per la verità non è un'intervista, ma sono sfoghi privati raccolti dal Corriere della Sera. L'impianto accusatorio che fece tremare il governo Renzi non ha retto. Il PM Roberto Felice ha chiesto l'archiviazione. Niente reati, niente associazione a delinquere, anche se l'allora compagno della ministra, Gianluca Gemelli, è dipinto come un soggetto intraprendente, interessato alle opportunità, spregiudicato, millantatore. Ma al di là dei censurabili atteggiamenti non emerge abbia mai richiesto compensi per interagire con esponenti del governo. E allora Federica Guidi oggi dice: sono felice di aver riconquistato l'anonimato, tutto ciò che scrivono di me non lo leggo, non apro i giornali perché ho sviluppato una sorta di ipersensibilità per quella vicenda, sono serena, faccio soprattutto la mamma, e è tornata a lavorare al fianco del padre Guido Alberto alla Ducati Energia. Federica Guidi. E poi Nunzia De Girolamo, archiviazione anche per lei in inchiesta che le costò il posto da ministro. Il Giornale, pagina 11, Maria Teresa Conti, sulla vicenda 3 anni fa fu massacrata, spiata, registrata in casa sua mentre allattava la figlioletta di un mese, intercettazioni finite sui giornali con le riunioni in casa. Si parlava di comitato d'affari che gestiva la ASL di Benevento, una valanga spazzata via dal GIP. La posizione di Nunzia De Girolamo, all'epoca ministro dell'agricoltura e costretta alle dimissioni, viene archiviata. Non ci furono irregolarità nell'affidamento del servizio del 118. No, vabbè, giusto per far notare. Ma siamo all'articolo che mi fa pinzore della giornata. ormai c'è questa sensazione per cui l'ha scritto in maniera straordinaria durante le vacanze Angelo Panebianco in un suo editoriale, questo atteggiamento, questa religione moderna di considerare gli animali più importanti o anche solo al pari degli esseri umani. Ed eccolo qui, Libero, mezza pagina dedicata al taccuino della veterinaria Giorgia Danesi, che racconta la sua visita a Jessica nelle valli bergamasche. Oh, povera bambina in difficoltà. No, Jessica è una capra. E qui si racconta delle disavventure di questa veterinaria che va nelle valli lontane della bergamasca, impercorribili, irraggiungibili, talvolta non per curare esseri umani, bambini, ma per curare mucche, capre, pecore, i nostri amici animali. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, l'esorcista dell'informazione italiana. E va bene, dai, visto che venerdì 13 mi hai messo l'esorcista, allora fai il bravo, Peter, che tra l'altro giustamente venerdì 13 è più anglosassone, come ci fanno notare. Poi la superstizione porta sfiga, non lascia perdere. Lascia perdere. Fai il bravo. Allora, ecco, lo sapevo. Ma ragazzi, qui ci sono i colpi di Stato, come in Libia. Rientra in te, in tutti i sensi, proprio l'esorcista, rientra in te, Peter. Allora, i voucher, sapete che è stato approvato, è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale il referendum sui voucher, quindi si voterà, a meno di clamorosi sviluppi da parte degli italiani, volete abolire i voucher. In realtà Roberto Petrini su Repubblica racconta come il governo abbia un piano per modificare proprio la pratica dei voucher, intervento per limitare l'utilizzo dei voucher da parte del governo. Sul tavolo di Palazzo Chigi, racconta Repubblica, ci sono una serie di ipotesi che si concretizzeranno in un provvedimento a febbraio. Bisogna prima attendere il monitoraggio scattato l'8 ottobre, da quando è in vigore la tracciabilità dei voucher. La linea del governo è intervenire non per evitare il referendum, scrive Repubblica, non ci sarà un maquillage. Dunque si voterà lo stesso, perché l'intervento che sta studiando il governo non combacia con la richiesta del referendum. Le ipotesi di lavoro, secondo Repubblica, sono più di una, si parla addirittura di 7, ma l'idea di fondo è quella di ridurre la platea ed evitare gli abusi. Il primo tassello si chiama quote, sulla scia di quanto avviene per altri contratti atipici come l'interinale. Si stabilirà dunque che i voucheristi per ogni azienda dovranno essere una quota proporzionale al numero di lavoratori occupati a tempo indeterminato. Oggi, al contrario, un datore di lavoro non ha limiti. L'altro limite riguarda invece il tetto di guadagno nominale che ogni lavoratore può raggiungere facendo più collaborazioni con vari datori o imprese. Il secondo intervento allo studio riguarderebbe invece la limitazione dei settori in cui è consentito l'utilizzo dei voucher, quindi limitare i settori. Su questo è interessante l'intervista che Maurizio Martina, ministro dell'agricoltura, rilascia alla Stampa. Pagina 9 lo intervista Paolo Baroni. Basta coi voucher usati in settori come l'edilizia. Indietro non si torna, dice Martina. I voucher vanno migliorati ma non cancellati. Bisogna assolutamente continuare a mantenere un approccio riformista al tema. Per questo dobbiamo vedere pregi e limiti di questi strumenti. Dunque non vanno cancellati come chiede la CGIL? Assolutamente no, risponde Martina, perché l'esigenza di uno strumento per regolare il lavoro accessorio non nasce a caso e non nasce oggi. E tra la possibilità di migliorare i voucher e il nulla, io preferisco di gran lunga la prima via. Come cambiare allora? Beh, penso si possa convenire che occorre fare una riflessione sui limiti di tempo, probabilmente i 12 mesi di oggi sono troppi e vanno ridotti, e credo poi si debba impedire qualsiasi uso dei voucher per pagare dipendenti. Terzo punto, avanzare sul terreno dei controlli. E poi appunto la questione dei settori. C'è il tema della tracciabilità. In agricoltura proprio in questi mesi abbiamo anticipato una parte di questa rimodulazione della tracciabilità. e poi appunto l'utilizzo dei settori, basta con i voucher usati in settori come l'edilizia, dice Martina, e questo è il titolo. Quindi la questione dei voucher comunque rimane ben centrale, come rimane ben centrale la questione dei presunti spioni. Che cosa è questa inchiesta? È, come ci ha detto ieri il generale Rapetto, in realtà l'intervento di due fratelli, fratelli Occhio Nero un po' così maldestro, che quasi casualmente si sono ritrovati a spiare qualche mail istituzionale sulla quale non correva alcuna notizia, diciamo, sensibile dal punto di vista della sicurezza nazionale, oppure c'è, come raccontano i giornali, qualcosa di profondo, di inquietante? Oggi guardate ancora il Corriere, si allunga l'elenco dei politici spiati, ci sono La Torre, Sacconi, Verdini. Certo, tra i complici, questo è abbastanza accertato, secondo l'accusa c'è un carabiniere. E infatti, racconta il Corriere della Sera, era vasta la rete che Giulio Occhio Nero aveva teso per proteggersi da inchieste giudiziarie. Oltre al poliziotto Maurizio Mazzella, incaricato di spiare un pubblico ministero, aveva soldato anche un vice brigadiere dei carabinieri, Maurizio Mencarelli, servizio a Tarquinia. A lui aveva affidato il compito di monitorare l'evoluzione delle indagini, come risulta da verifiche effettuate sul conto degli specialisti della polizia postale che lo hanno denunciato. Ci sono gli intercettati. Secondo il giornale, Chiara Giannini e Massimo Malpica, pagina 3, Renzi sapeva dell'inchiesta. Questo è il titolo del giornale. Mentre il Fatto Quotidiano si concentra su un vecchio affare che riguarda il porto di Taranto nel 2007, in cui c'entrava appunto Occhio Nero, che si presentò all'allora ministro Di Pietro, Antonio Di Pietro, per un lavoro a Taranto, presentando una lettera firmata da un importante gruppo bancario statunitense, il Bear Stearns, con sede a Londra, che autorizzava Occhio Nero a trattare investimenti per suo conto. E Di Pietro scrisse così all'autorità portuale di Taranto per sollecitare la trasmissione del progetto preliminare dell'opera in oggetto. Insomma, per il Fatto Quotidiano, Francesco Casula e Antonio Massari titolano «Lo spione, il porto di Taranto e la fregatura per Di Pietro». Fu firmata una legge ad hoc per Occhio Nero nel 2007 dall'allora ministro delle infrastrutture, che oggi dice al Fatto «Non ricordo chi mi segnalò quel progetto». C'è davvero da, come dire, andare a scavare su questa vicenda, e figuratevi se non succederà nei prossimi giorni. Allora, buone notizie per i partiti? Chi lo sa? Per Repubblica nel 2016 è un flop di iscrizioni ai partiti, soprattutto al Partito Democratico. Crollo in Emilia, paralisi in Sicilia. Pagina 8, proroga fino al 28 febbraio per le iscrizioni. Guerini dice recupereremo. Secondo Repubblica, Giovanna Casadio, a parte le 2000 tessere nel Catanese e qualche rinnovo col contagocce a Enna, Messina, in Sicilia il PD è paralizzato, iscritti addio. Un allarme che cresce. A Torino il calo provinciale è da 7.800 a 4.900 iscritti. Solo in città di Torino si è passati da 2004 a 1.000 iscritti. In Emilia-Romagna in 3 anni gli iscritti si sono dimezzati. 76.000 erano nel 2013, sono 37.000 ora gli iscritti al Partito Democratico. Però crescono, qualcuno può dire con un certo stupore, i contributi del 2 per 1000. Sapete che non c'è più il vecchio rimborso ai partiti vecchia maniera, ma c'è la possibilità di destinare il 2 per 1000. Allora, non è che lo fanno molti italiani, ma Libero racconta, i dati sono oggi pubblicati, Libero fa una pagina intera dicendo che di fatto il 2 per 1000 ha portato una valanga di soldi ai partiti. Più soldi ai partiti. Tranne Silvio. Silvio è in bolletta, Forza Italia. Dopo aver visto le tabelle pubblicate dal Ministero dell'Economia, racconta Paolo Emilio Russo su Libero, qualcuno ha strabuzzato gli occhi. Altro che diminuire i finanziamenti ai partiti. La somma del 2016 è superiore a quella del 2015, grazie ai contributi degli italiani. Il Partito Democratico è colui, è il partito che ha incassato di più, oltre 6 milioni e 400 mila euro. La Lega Nord invece ha incassato come secondo partito, da 129 mila contribuenti, ha incassato 1.411.000 euro. Al terzo posto un'altra sorpresa, Sinistra Ecologia e Libertà, finanziato per 838.000 euro. Io però qui dico, oh, se liberamente gli italiani scelgono di dare questi contributi, ben vengano, voglio dire, non c'è nulla di male, in maniera trasparente, e quindi almeno è una raccolta libera, per libera scelta dei cittadini italiani, e trasparente. Caro Mauro Meazza, stai affinando gli ultimi accordi, state affinando gli accordi e stai affinando l'ugola? Certamente, caro Alessandro, siamo carichissimi per la serata di domenica. Posso concorrere per i biglietti? No, sono finiti. Allora, ti tocca pagare per andare per venire a suonare. Mi tocca pagare per suonare, va bene. Sì. Un biglietto a testa per i Chapter 11, non fate i furbi, biglietto cumulativo. Uno a testa. Non vale neanche per tutto il gruppo. No. Va bene, allora, disposizioni magari dall'alto, così mi dicono. Adesso magari vediamo con gli altri componenti del gruppo, gli altri colleghi del gruppo. Vediamo, perché sai, quando si tratta di soldi noi siamo abbastanza attenti, sai che domani c'è Plus, ad esempio, aspetto la lettura di Plus ogni sabato, così capisco come possiamo investire. Oh, hai visto questa inchiesta 10 anni di crisi che proponiamo, che avviamo oggi sul Sole 24 Ore? Ecco, è un articolo, direi che è un articolo da meditazione per oggi. Invece, a proposito di articoli con un utilizzo improprio, hai parlato a Mattia, a tuo figlio, della Gabibbo, di norme tributi? No, ti devo ringraziare molto di questa cosa, perché ieri mi hai segnalato questo articolo, effettivamente gliel'ho letto, ti ringrazio tantissimo, perché non sono arrivato alla terza riga che ha dormito come un angioletto tutta notte. Perfetto. Ah, quindi un utilizzo improprio. No, ti ringrazio, ti ringrazio. Perché un utilizzo improprio degli articoli. Allora, guarda, per stasera ti consiglio, ci perdoneranno invece tutti coloro che si occupano di fisco, perché la cosa è seria, il ne bis in idem. Secondo me questo alla prima riga e mezza potrebbe... Invece la questione è importante, perché l'avvocato generale della UE, come riferiamo in norme e tributi, che Mattia, va bene, può anche addormentarsi, ma invece tutti gli altri devono leggere religiosamente. Sì. Ecco, l'avvocato generale ha detto: no, ma il ne bis in idem, cioè insomma doppia sanzione, certo, su una stessa cosa, può essere. Potrebbe anche restare. Ma quindi, principio sacrosanto. È sacrosanto, ma dipende dove vanno a colpire le sanzioni che vengono considerate. Ma leggi Giovanni Negri su norme tributi come ti si conviene religiosamente. Va bene. Poi stasera sai che cominciano le sfilate della moda qui a Milano. Certo. Se non lo sapevi, sarai in prima fila. Informati. No, io no, ma tu sarai probabilmente in prima fila, non so se seguirai quell'evento. Comunque, tutti i dettagli, anche quelli soprattutto economici, nelle pagine di Moda 24, oggi è venerdì, quindi Moda 24, nell'articolo di Giulia Crivelli, che tra l'altro mi sembrava di averci parlato qualche mattina. La grande Giulia, eccola qua. E infatti oggi ci spiega appunto come ci siano buone prospettive per il settore moda nel 2017. Speriamo che appunto queste vengano confermate. Ti segnalerei molte cose. Già hai parlato di Fiat Chrysler, hai parlato dei partiti, anche noi abbiamo appunto questa indicazione sui versamenti dei contribuenti, che in realtà ci sono state meno scelte, più soldi ma meno scelte sul 2 per 1000, quindi meno contribuenti che hanno optato per i partiti. Ti segnalerei però da meditazione il fatto che bisognerebbe finire di attuare la buona scuola. Mancherebbero 9 decretucci, che però forse li fanno domani. Vediamo, magari ti chiamo domani, se ti interessa seguire la materia. Anche molto presto, che domani è sabato. Molto presto, va bene, la stessa ora, diciamo 6:45, va bene, è troppo tardi. Sì, va benissimo. Va bene, no, ma li fanno più tardi, stai tranquillo, però leggi invece nelle pagine di commenti e inchieste il lavoro che fanno Claudio Tucci e Eugenio Bruno, perché appunto mancano, ed è una cosa seria, 9 decreti, i termini stanno scadendo, bisogna intervenire, altrimenti la buona scuola resta un cantiere non completo. Domani sempre dovrebbero essere varati gli ultimi decreti per le unioni civili, per completare le unioni civili. Di questo parliamo in norme e tributi. Ti segnalo anche, questo riguarda chi si occupa di alberghi e ristorazione, il tax credit. Sai che c'è un tax credit per ristrutturare gli alberghi? Ci sono insomma degli sconti le istanze entro il 27 gennaio, tutto questo naturalmente su norme e tributi. E infine calano i pensionati. Te l'avresti mai detto? Meno 126.000 l'anno scorso. Caro Alessandro, medita su questo dato intanto che magari leggi per la buonanotte l'articolo del Nebis in Idem a Mattia. Bene. E naturalmente ci sentiamo, noi ci vediamo domenica, certo. Qualcuno ci vedrà domenica, per tutti gli altri, buon fine settimana e soprattutto traffico! Alessandro Milan, la pietra trombale dell'informazione. Addirittura. Allora, la cronaca. Ci sono tanti particolari di questo duplice efferato omicidio. Gli assassini in cella a Ferrara, i due adolescenti che hanno ucciso i genitori di uno dei due. Non avremo più amici, queste le frasi prese da questi due adolescenti e carpite e finite sui giornali quando sono entrati in cella. C'è questa frase agghiacciante: quando gli hanno chiesto gli inquirenti il perché di tanto accanimento sui corpi, ha spiegato uno dei due non volevano morire. Secondo i magistrati hanno preso coscienza di quello che hanno fatto, uno, nello specifico, il figlio delle due vittime, un po' più distaccato, l'altro, l'amico, disperato. E dopo il padre parla, ieri sulla stampa, parla la madre di questo ragazzo che ha ucciso. La mamma del complice si dispera. Il mio Manuel ha ucciso anche noi. Pagina 3 del Giorno. Nicola Bianchi la intervista. La nostra vita è disfatta, finita. Manuel quella notte ha ucciso anche noi, ma non potrò mai lasciarlo solo. Insomma, parole di mamma. Certo, sconvolta, perché dice: dopo il delitto sono arrivati a casa nostra, hanno giocato alla PlayStation, li ho salutati, andati a dormire, si sono svegliati tranquilli, hanno pranzato, poi alla fine alle 17 è tornato da me in lacrime il figlio e mi ha detto: mamma, ti devo raccontare una cosa bruttissima, hanno ucciso i genitori di Riccardo. Così ha detto, hanno, mi si è gelato il sangue. Racconta di un'amicizia da sempre insieme, dall'infanzia. E adesso il timore anche da parte della mamma che il figlio si possa togliere la vita, e poi dice: come mamma non lo abbandonerò, sarà sempre mio figlio nonostante quello che ha fatto. Vabbè, si racconta di una vita da paese, ragazze, canne, Coca-Cola, il gruppo di WhatsApp, un po' di coca o senza la cola, ingredienti che a Codigoro in provincia di Ferrara raccontano in uno spaccato, così una fotografia racconterebbero un po' l'adolescenza di questi due ragazzi che hanno confessato l'omicidio. Vi segnalo su Repubblica, in rapida conclusione, Jaime D'Alessandro intervista Mr. Netflix. Mr. Netflix, che tra l'altro è un ex Marine, Reed Hastings, fondatore e amministratore delegato, uno che cammina per il quartier generale di Los Gatos in California con una tazza di caffè, non ha neanche l'ufficio, e racconta tutta la strategia di Netflix. Beh, non dice se questo modello di business funzioni davvero, non posso parlarne, mette le mani sorridendo. Il 18 gennaio rilasciamo i dati sul numero degli abbonati, siamo quotati in borsa, non mi è concesso dire nulla. Punta però all'Italia ad arrivare a 5-6 milioni di abbonati entro il 2023. I risultati confermano che siamo sulla buona strada. Interessante. Con la TV del futuro conquisteremo 6 milioni di italiani, parla il numero uno di Netflix, che è sbarcato anche in Italia, e racconta su Repubblica un po' di cose che non ho tempo di leggere e approfondire, ma vi segnalo. Vi segnalo anche un'inchiesta della Verità, pagina 5, sul disastro Moby Prince. Vi ricordate, prima del rogo, la Moby Prince che partì da Livorno per Olbia 10 aprile 91 e alle 22:25 entrò in collisione con la petroliera dell'Agip Abruzzo e ci fu l'esplosione e soprattutto 140 morti. Ebbene, Pierangelo Maurizio racconta che una commissione d'inchiesta al Senato sta arrivando a una sorta di colpo di scena. Moby Prince fu una bomba. Questo almeno a 26 anni dal disastro è ciò che starebbe arrivando come conclusione la commissione d'inchiesta del Senato, che sta imboccando questa pista, cioè la pista dell'attentato. È una svolta, sarebbe una svolta clamorosa. Pagina 5 della Verità, leggete i dettagli. Va bene, ma sempre sulla Verità, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Scusate, viene un momento che... Ma c'è un'intera pagina che racconta che in una vita versiamo in tutto 70 litri di lacrime. Succede in una vita intera e il culmine del pianto è tra le 19 e le 22. Allora alle 7.55 possiamo essere allegri. Tra le 19 e le 22 si piange, soprattutto in una vita intera. Versate 70 litri di lacrime. Ma chi se ne frega!